Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Disturbato, frammentato, agitato, leggero sono aggettivi che usiamo per descrivere il nostro sonno quando non ci soddisfa. E non soddisfa una persona su tre, un dato che per certi versi ci può consolare. Insomma, siamo in buona compagnia. Ma vi dico di più: la storia è ricca, piena di personaggi illustri, artisti, generali, statisti, scienziati, che riposavano solo poche ore per notte. Questo non ha avuto ricadute negative sulla loro vita, sulla loro capacità, le loro scoperte, sulle loro azioni. Dormire poche ore di per sé non è un problema, perché ciascuno dorme in base alle sue necessità, che possono essere influenzate dall'età, dalla stagione o da condizioni ambientali. Ma se una persona riesce a dormire solo per un numero di ore minore rispetto a quello che sente come necessario, allora con il tempo accumulerà un debito di sonno sempre più ingente, in grado di influenzare la sua attività quotidiana, il suo umore, in più in generale direi la qualità della sua vita. Allora oggi, cari amici, cerchiamo di capire se il nostro conto sonno è in rosso e proveremo a trovare cause e soluzioni. Dio benedica chi ha inventato il sonno, mantello che avvolge i pensieri di tutti gli uomini, cibo che soddisfa ogni fame, peso che equilibra le bilance e accomuna il mandarino al re, lo stolto al saggio. Miguel de Cervantes. E noi oggi siamo in ottime mani, perché in linea con noi è tornato a trovarci uno dei maggiori esperti in materia, il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Professore, io ho imparato da lei che brevi o lunghi dormitori si nasce e spesso fa più la qualità che la quantità. Ma se è vero che ciascuno di noi ha il suo sonno, è altrettanto vero e scientificamente dimostrato che il buon sonno, e sottolineo buono, ha i suoi tempi e i suoi modi, insomma ha quello che si potrebbe dire una sua architettura e deve avere una certa durata, le famose 7-8 ore. Sono queste infatti che servono al nostro organismo per recuperare, per permettergli di funzionare bene. È così? È così. Le 7-8 ore sostanzialmente rappresentano quella che è la necessità per la maggior parte delle persone, e anche perché non dimentichiamoci, il sonno ha bisogno per esprimersi di una serie di un percorso particolare, dove il sonno non REM e il sonno REM, che sono le due tipici momenti del sonno, hanno bisogno di ripetersi 4-5 volte nel corso della notte. Quindi c'è proprio la necessità di avere una certa lunghezza per far sì che il sonno possa esprimere i cicli di cui ha bisogno. E quindi le 7-8 ore, è vero, sono quelle necessarie per la maggior parte delle persone, anche se è vero che abbiamo purtroppo visto che negli ultimi anni, ad esempio rispetto a 20 anni fa, il sonno tendenzialmente nella popolazione generale si è accorciato di circa un'ora. E questo sicuramente non va bene, anche perché noi ci preoccupiamo tanto di quelle che sono delle malattie importanti come il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'obesità, eccetera, eccetera. Ecco, e dobbiamo però ricordarci che spesso dietro un'aumentata incidenza di queste malattie c'è proprio il fatto che dormiamo di meno, e quindi sicuramente dormire di più è importante. Come faccio, professor Ferini Strambi, a capire se sono in attivo o in passivo, se ho un debito di sonno, e soprattutto quante notti ci vogliono per raggiungere un debito consistente, quindi con riflessi sulla salute? Ma allora, parto dalla seconda parte, quante notti ci vogliono, ma in realtà quello che succede è che spesso già una notte, due notti sono già sufficienti per creare degli squilibri in quello che è il funzionamento del nostro organismo. Il problema è che poi andando avanti quasi uno pensa di potersi adattare a questa privazione di sonno. In realtà non è così, perché con diversi studi abbiamo dimostrato noi, ma anche tante altri gruppi di ricerca a livello internazionale, che il soggetto in realtà poi andando avanti non si rende conto di quelle che sono, diciamo così, le proprie defaillance legate appunto alla perdita di sonno, però la perdita di sonno chiaramente pesa, ci porta ad avere un accumulo progressivo, quindi più si va avanti peggio è, quindi questo è sicuramente la cosa. Come ci si fa ad accorgere? Ci si accorge sulla base del funzionamento di giorno. Se io funziono bene di giorno vuol dire che ho dormito in maniera sufficiente. Se io tendo ad avere sonnolenza, tendo ad essere più irascibile, irritabile, se così faccio più fatica a fare le mie cose, quelle che normalmente faccio, vuol dire che ho dormito meno del necessario. 800 24 00 24 se volete intervenire, se volete scriverci, abbiamo il 349 238 6666 e anche il nostro profilo Facebook. Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca si fa aspettare. Alexandre Dumas, padre. Professor Ferini Strambi, c'è un modo che ci aiuta a capire se il nostro problema di sonno è lieve o più serio? Ad esempio, molte persone fanno fatica ad addormentarsi, ma esiste un tempo, tra virgolette, normale di addormentamento? Ma non è che ci sia proprio un tempo normale. Noi abbiamo definito questo tempo di addormentamento così classicamente come un tempo che nella norma deve essere inferiore ai 30 minuti. Ecco, però diciamo così, è una definizione che utilizziamo anche per gli studi clinici, però ecco, è qualcosa che è stato creato in maniera un po' arbitraria. Però sicuramente possiamo dire che impiegare più di 30 minuti vuol dire che non, diciamo, uno ha difficoltà sicuramente di addormentamento. Professore, ma tutto sommato meglio far fatica ad addormentarsi e poi dormire tutto d'un fiato piuttosto che addormentarsi di botto e poi risvegliarsi di continuo? Sicuramente la situazione più frequente è quella del risveglio notturno frequente, cioè quindi il problema della frammentazione del sonno. Cioè sul piano, diciamo così, epidemiologico nella popolazione generale, abbiamo visto che il fatto di avere un sonno interrotto con più risvegli è un po' più frequente della difficoltà di addormentamento. Però poi sul piano pratico sicuramente entrambe le cose non vanno bene. Però potremmo dire che forse il fatto di risvegliarsi più spesso nel corso della notte può avere delle ripercussioni più importanti sul generale stato di salute. E c'è anche chi invece si sveglia prima del tempo, ve la chiamate insonnia terminale. Insonnia tardiva, sì certo, sì. O risveglio precoce mattutino. Ecco, qui molto spesso dietro a quel problema del risveglio precoce mattutino c'è un problema dell'umore che sta diminuendo, cioè a volte quando siamo un po' giù di tono, quando prima ancora magari di diventare veramente dei depressi, ecco, a volte proprio notiamo questo fatto, che cominciamo a risvegliarci molto presto al mattino, alle 4, alle 5, senza essere poi più in grado di riaddormentarci. Ecco, questo spesso appunto è un po' la spia di un tono dell'umore che sta calando. Allora, raccontateci qual è il punto debole del vostro sonno e noi lo leggeremo da destra o da sinistra, o meglio, secondo la lettura della medicina occidentale, secondo quella della medicina cinese. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Lefei Resort. Buongiorno dottor Corradin e bentornato. Buongiorno a te e a tutti. Dottor Corradin, proprio ieri noi parlavamo di equilibrio. Il sonno è il risultato di un equilibrio perfetto, ma ciascuno, si sa, deve trovare il proprio. Non ci sono formule universali, detto questo però io mi auguro che lei aiuti i miei ascoltatori a trovare quella giusta per il loro caso. Certamente, come dicevi, il sonno è l'espressione del nostro equilibrio, noi lo chiamiamo equilibrio yin e yang, che potremmo chiamare equilibrio luce buio. Pensa che già nel IV secolo a.C. la medicina cinese diceva che una forma particolare di energia, che si chiama energia di difesa, circola 20 volte, 25 volte durante il giorno nella superficie del corpo e 25 volte durante la notte nella profondità del corpo, con lo scopo di far recuperare le energie, di proteggere gli organi interni e di ristabilire questo equilibrio. In aggiunta, già nel IV secolo a.C. si parlava di due linee energetiche particolari che hanno la funzione specifica di regolare il sonno. Queste due linee energetiche sono le linee energetiche da un lato della postura, dall'altro del sonno, ma dall'altro ancora della nostra capacità di vederci, il fatto di vederci bene o il fatto di vederci meno bene, il fatto di guardare la vita attorno a noi con occhi propositivi oppure con occhi meno propositivi. Come sempre la medicina classica cinese è la medicina dell'equilibrio, ma è una medicina psicosomatica, quindi, come avremo occasione di parlare fra poco, Il sonno è l'espressione del nostro perfetto equilibrio dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico e, se vuoi, dal punto di vista più spirituale. Infatti, professor Ferini Strambi, voi insistete molto anche sulle regole di igiene del sonno. Basta poco perché il nostro sonno diventi disturbato, una cena troppo abbondante, una preoccupazione, l'attività fisica svolta magari nel tardo pomeriggio. Questo equilibrio va subito in tilt. Professor Ferini Strambi. Sì, questo equilibrio va in tilt e voglio dire, se noi paragoniamo il sonno a una delle cose, delle altre funzioni fondamentali che svolgiamo tutti i giorni, il fatto del mangiare, no? Ecco, chiaramente ad esempio quando noi ci dedichiamo al cibo siamo sempre molto regolari, cioè quindi non è che facciamo pranzo una volta a mezzogiorno, una volta alle 3, una volta alle 4, una volta alle 2, no? Ecco, la stessa cosa dovremmo riprodurla per il sonno. La regolarità è una cosa fondamentale proprio perché il sonno si trascina dietro tante altre cose, cioè la regolazione della temperatura corporea, la regolazione della pressione, la regolazione, quindi tante altre funzioni, e quindi essere regolari è fondamentale. Ma oggi, ad esempio, un aspetto importante per quanto riguarda l'igiene del sonno è il discorso dell'utilizzo del computer, no? Quindi noi siamo sempre fino a tardi al computer di fronte a questa luce, questa fonte luminosa, che purtroppo, ahimè, ha un grosso difetto, perché va a inibire il rilascio della melatonina. Luce vuol dire blocco della melatonina, e quindi luce, fonte luminosa, vuol dire poi maggiore difficoltà ad addormentarci. Per non parlare poi anche degli aggeggi, dei vari aggeggi elettronici di cui spesso ci circondiamo. Ripeto, parlo di cose proprio che sono state studiate scientificamente e provate. Il fatto di avere intorno tanti strumenti elettronici vuol dire ad esempio anche diminuire la profondità del nostro sonno, avere meno sonno profondo. E quindi ecco, quindi dobbiamo anche stare attenti a queste piccole cose che possono sicuramente cambiare la qualità del nostro sonno e quindi di conseguenza la qualità della nostra vita. Giovanni ci chiama da Alessandria all'800 24 0024. Giovanni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Io non ho un problema di sonno, mi chiamavo per mia moglie. Mia moglie si addormenta sempre alla sera immediatamente appena si mette a letto, sì, e dorme 3 o 4 ore, poi si sveglia e non riesce più a dormire. Poi al mattino, quando è quasi ora di alzarsi, si riaddormenta, e forse per lei dormirebbe ancora, ma deve alzarsi e si alza. Io è da un po' di tempo che a sta cosa qua gli ho già detto più di una volta di andare, però non sappiamo sinceramente da chi andare e cosa fare. Ha provato a utilizzare la melatonina ma senza alcun beneficio. Parleremo anche della melatonina, ma io voglio girare la domanda al dottor Corradin. Dottor Corradin, la medicina cinese classifica l'insonnia in base alla forza o alla debolezza di alcuni organi, rene, stomaco, fegato, e dà anche un'indicazione precisa in base all'ora del risveglio, è vero? Assolutamente sì, come accennavo prima, per la medicina cinese questa energia circola in profondità durante la notte secondo un ritmo ben stabilito, e quindi esistono degli orari caratteristici. Ad esempio, il risveglio alle 2 di notte è molto più legato a quella che noi chiamiamo turba energetica del fegato, che non è ovviamente il fegato occidentale, coinvolge più la mente o il cervello della medicina cinese. Comunque, e quindi la sono turba persone... energetica del fegato è legata fondamentalmente, o comunque uno dei sintomi fondamentali è questo stato di nervosismo, di incazzatura continua, lo stato di collera. Questo tende a determinare risvegli molto più fra l'una e le 3 di notte, con la punta massima alle 2. Invece il risveglio fra le 3 e le 4 del mattino, per la medicina cinese, è molto più legato a una funzione che noi chiamiamo milza, che, ripeto nuovamente, mi scusate, non è la milza della medicina occidentale, che sono molto più, da un lato, le preoccupazioni, i soggetti molto preoccupati, e dall'altro, come accennava il collega prima, la mancanza di rituali. Questo ne parleremo fra un istante. Comunque, l'eccesso di preoccupazioni, l'eccesso di responsabilità e la mancanza di questi orari precisi, di questi rituali precisi, tende a dare questa insonnia, particolarmente fra le 3 e le 4 del mattino. Invece l'insonnia verso le 5-6 del mattino, per la medicina cinese, è legata dalle 4 alle 6 del mattino, è legata a un organo che si chiama polmone, che, come diceva prima il collega, è legato fondamentalmente alla tristezza da un lato, e dall'altro alla necessità di mettere ordine nella propria vita. Quindi dicevo, ogni orario ha una caratteristica specifica. E aggiungo come ultimo dato, per la medicina cinese, coloro che si alzano stanchi, nonostante abbiano dormito un numero sufficiente di ore, sono legati a un'altra linea energetica ancora, che si chiama Zuein, ma insomma è una linea energetica detta del fegato, del ministro del cuore, insomma, che è la nostra necessità di chiudere una fase della nostra vita per iniziarne un'altra. Quindi ogni orario ha una relazione specifica con alcuni organi e con alcune funzioni, sempre ovviamente come sintomo, diciamo, fisico dell'insonnia, dall'altro i sogni, di cui si potrebbe ovviamente parlare per ogni organo e sono già stati descritti nel IV secolo avanti Cristo, e poi con uno stato psichico caratteristico per ogni orario e per ogni organo. Professor Ferini Strambi, che lettura dà invece alla medicina occidentale per le persone che si svegliano al mattino e sono stanche? Intanto così diamo anche un'indicazione al nostro ascoltatore che voleva far visitare la moglie, farla vedere, dopo quanto tempo di sonnolenza, di fatica, di mancanza di riposo ci si rivolge al medico e a quale tipo di medico? Allora, innanzitutto per problemi tipo quelli che appunto a cui accennava l'ascoltatore, prima bisogna parlare col proprio medico, il quale eventualmente può inviare il paziente a un centro di medicina del sonno. In Italia esiste questa associazione italiana medicina del sonno che raggruppa circa 30 una trentina di centri sparsi in tutta Italia, e l'organizzazione ufficiale della medicina del sonno, e c'è un sito dove si può trovare la piantina e dove sono collocati i vari centri. Questo sito lo possiamo dire perché appunto è il sito ufficiale, è che è www.sonnomed.it. Ecco, quindi questo è il sito dove si possono trovare i vari centri. Per quanto riguarda invece il discorso dell'alzarsi stanchi, ecco, ci sono tante possibili cause. Le cause possono essere legate a un problema respiratorio, vedi ad esempio il problema delle apnee, dell'ipopnee nel corso della notte. Può essere legato a un problema motorio, il fatto di avere dei piccoli scatti alle gambe ogni 20-30 secondi, e questi piccoli scatti determinano un alleggerimento del sonno, dei micro risvegli, per cui poi il soggetto si alza, diciamo così, molto, molto stanco al mattino, pur avendo dormito 7-8 ore. Oppure, questa è una cosa su cui ci stiamo concentrando proprio negli ultimi tempi, perché stiamo studiando proprio questo fenomeno dei soggetti che si alzano stanchi ma non hanno le apnee, non hanno questi scatti alle gambe. Ecco, allora un'altra cosa che stiamo valutando è appunto quella che è la distribuzione delle varie fasi di sonno. Perché? Perché abbiamo visto che i soggetti, ad esempio, che hanno tanto sonno REM, che è il sonno in cui si sogna, sì, ci sono soggetti che invece di avere, per dire, il 20-25% del proprio sonno speso per questa fase particolare, ci sono soggetti che passano una notte per il 30-40% in una fase di sonno REM, la fase in cui si sogna, e quindi si alzano molto stanchi al mattino. E quindi, tante cause. Professor Ferini Strambi, noi dobbiamo dare la linea ai mercati, poi torneremo anche con consigli, indicazioni. Prima di andare ai mercati, come sempre, vi ricordo l'appuntamento con il nostro Daily Lab, dove i nostri esperti, tra cui anche il professor Ferini Strambi e il dottor Corradin, ci insegnano ogni giorno a prenderci cura di noi, della nostra salute e del nostro benessere. A tra poco. Essere e benessere. Dormi che è meglio pensarci domani. Alla muta distanza che scorre tra noi. Quando non sei. Il sonno buono, quello che ci aiuta a stare bene, come mantenerlo e come recuperarlo. In linea con noi il professor Ferini Strambi, il dottor Maurizio Corradin. Oggi consigli, indicazioni, suggerimento, novità della ricerca secondo la medicina occidentale e secondo la saggezza della medicina cinese. Intanto vorrei sentire subito Mimmo dalla provincia di Napoli, poi andiamo a Maurizio dalla provincia di Milano. Due domande che poi assegnerò ai miei esperti. Mimmo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Spero che la mia domanda sia pertinente. Vediamo. Noi stiamo organizzando la nostra famiglia un viaggio in America. Sì. Con un bambino di 10 anni e siamo sinceramente un po' preoccupati per il jet lag, nel senso che noi partiamo alle 7:30 di mattina, viaggiamo durante il giorno e arriviamo dove la giornata è appena cominciata, mentre il bambino dovrebbe andare a letto. E quindi siamo preoccupati di passare una settimana in America con il bambino che è un debito di sonno, non, non so se possa godere. Professor, certo, andiamo a sentire invece che cosa ci chiede Maurizio dalla provincia di Milano. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Forse sono già stato preceduto, anch'io mi addormento verso le 10-11 di sera e mi risveglio verso le 2-3. Le 2-3, quelle in relazione con il fegato energetico, sia come dice il dottor Corradin con le incazzature, ma ce ne occupiamo subito. Intanto chiedevo al professor Ferini Strambi consigli per il jet lag, un bambino di 10 anni, lo portiamo in America? Sì, sì, sì, sì, no, certo, si può portare in America tranquillamente. L'unico trucco è questo, cercare magari 3-4 giorni prima del viaggio di creare un po' una sorta di piccola privazione di sonno, cioè nel senso nei 3-4 giorni precedenti bisogna cercare un pochino di adattarsi a quello che sarà il nuovo orario che troveremo negli Stati Uniti, quindi cercare di appunto di andare a letto un pochino più tardi e quindi essere un pochino privati di sonno. Questo poi voglio dire non è poi così drammatico il fatto quando poi si arriva là, perché magari il problema si può avere il primo giorno, poi in genere soprattutto poi i bambini insomma ecco, non riescono abbastanza bene a riadattarsi. Quindi la cosa importante però ecco 3-4 giorni prima far sì che il soggetto sia un pochino in privazione di sonno e che possa diciamo così un pochino adattare il proprio orologio biologico interno a quello che sarà l'orario che troveremo là. Dottor Corradina, abbiamo il nostro ascoltatore che si risveglia alle 2 di notte, intorno alle 2 di notte, lei ha parlato di una relazione con il fegato, naturalmente il fegato energetico, non il fegato come lo intendiamo noi all'occidentale, ma individuato l'ora critica, che cosa suggerisce la medicina cinese? Poi ho individuato l'ora critica, si deve, qui entriamo magari nei suggerimenti più generali, no? Si deve cercare di ristabilire, se lo si può fare con le erbe, lo si può fare con l'attività fisica, lo si può fare con diverse caratteristiche, l'organo che è particolarmente in causa, l'orario delle 2, cioè fra l'1 e le 3 è una cosa, quello fra le 3 e le 5 è diverso, perché poi spesso si tratta di riqualificare un po' la qualità della propria vita. Certo. Se prendo lo spunto per completare un discorso, almeno sono 3 i suggerimenti che in linea generale noi possiamo dare. 1, cercare di mantenere questi rituali. Nel 7 secolo uno dei grandi medici della medicina classica cinese, che era Sun Simiao, sottolineava come il cuore, che è per la medicina cinese il grande controllore di tutti i movimenti di energia, ha bisogno di rituali. Questo significa che non si può terminare il lavoro e portarsi il lavoro a casa e quindi continuare a lavorare, perché non abbiamo un mezzo per spegnere il cervello. In realtà ce l'abbiamo, sono questi rituali, andarsi a fare una corsa, ha terminato il lavoro, andarsi a fare una nuotata, ma a volte anche una passeggiata, trovarsi con un amico, cioè fare un rituale che sottolinei che è terminata il nostro giorno, almeno il giorno lavorativo, e si entra in un'altra fase della nostra vita. Questo per noi è un consiglio che in generale diamo sempre. Il secondo, prima accennavo che per la medicina cinese l'energia circola in superficie durante il giorno e poi durante la notte scende in profondità, e nello scendere in profondità prende una linea particolare che si chiama meridiano dello stomaco. Questo meridiano è quindi la cena serale, deve essere una cena leggera e deve essere una cena abbastanza lontana dal momento in cui si va a letto, cercando poi, come si accennava, di mantenere questi rituali anche nel sonno, quindi senza regole fisse, ma mangiare circa sempre alle 7:30 di sera, comunque a un orario sufficientemente lontano dal momento in cui si va a letto, poi quando si va a letto che sia circa sempre allo stesso orario, proprio perché viene attivata questa linea energetica che è quella che immette fra momento diurno e momento notturno. E poi la terza cosa, che riprendo il discorso a carattere generale, quello di riqualificare la propria qualità della vita per modificare il proprio assetto emozionale, perché, come accennavo, ad ogni organo corrispondono alcune emozioni e ad ogni organo corrispondono alcuni stili di vita, cioè cercare di guardare le cose un po' dall'alto, nel senso che se abbiamo un raffreddore non è una cosa più grave, non ci possono capitare cose gravissime tutti i giorni, quindi cambiare il modo di osservare la nostra vita per noi è una caratteristica essenziale poi per migliorare anche la qualità del sonno. Professor Ferini Strambi, mi sembra che la medicina cinese e la medicina occidentale siano assolutamente in linea per quanto riguarda i suggerimenti per tornare a dormire bene. Ma direi proprio di sì, a parte appunto qualche diciamo interpretazione così che ha dei fondamenti diversi, che si basa su cose diverse, però sicuramente la regola, le regole sono comuni, cioè quindi il fatto di dover comunque porre attenzione non soltanto al sonno ma anche a quello che ci succede durante il giorno e quelle che sono le ore precedenti il sonno, ecco, sicuramente punti di contatto ce ne sono. La cosa fondamentale secondo me è questo, è cercare comunque di pensare che il sonno è una cosa fondamentale. Io mi arrabbio sempre quando dico tanta energia sprecata per mangiare bene e poi per il sonno siamo sempre lì in attesa che ci arrivi così dall'alto, che ci piova come qualcosa che deve necessariamente venire fuori che non ci costringe a dover impiegare e metterci anche qualcosa di proprio, di nostro, no? Insomma, ciascuno di noi ha un po' il sonno che si merita, detta così, eh? Assolutamente sì, però appunto ricordiamoci che dormire bene è importante, è fondamentale. 800 24 00 24 se volete dormire bene insieme a noi, insieme ai consigli dei nostri esperti. Adesso state svegli perché c'è essere benessere, adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma intanto voglio salutare il nostro prossimo ospite, il professor Ciro Vestita, medico dietologo all'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con il professor Vestita parleremo di erbe amiche della nostra salute, del nostro benessere, perché erbe che ci aiutano a superare, ad arginare alcuni problemi del sonno. Essere benessere. Professor Vestita, un'erba per ogni problema di sonno, di insonnia. Per chi fa fatica ad addormentarsi, ad esempio perché non riesce a staccare questa benedetta spina, non segue le regole dell'igiene del sonno, i rituali, si infila a letto, iniziano i pensieri ad affollarsi e gli tolgono il sonno? Ma guardi, innanzitutto c'è da dire questo, sul sonno ancora la medicina ufficiale non ha capito granché, qualcuno ci deve ancora spiegare perché la mamma si sveglia ad esempio al pianto del bambino durante la notte e non si sveglia se 5-6 pentole cascano in cucina, sono ancora delle cose misteriose che non riusciamo ancora a spiegare, quindi i meccanismi del sonno non sono stati ancora completamente spiegati. Detto questo, devo dare molta ragione al collega, cioè nulla si fa per poter dormire meglio, molto si fa per mangiare bene, c'è molta cultura del ben mangiare, pochissima del sonno, la gente ad esempio sovente mangia tanto e poi va subito a letto, se si addormenta deve sapere che lo stomaco nel momento in cui ci si addormenta ferma il suo lavoro e quindi noi ci ritroviamo con la digestione bloccata che poi riprenderà magari verso le 2-3 di notte, svegliandoci e creandoci dei problemi. Detto questo, le erbe nulla possono fare in questi casi, ci vuole veramente un po' di stile di vita. Certo. Se invece l'insonnia è su base ansiosa, cioè ci sono praticamente le situazioni di ansia che inducono il soggetto a non prendere sonno, soprattutto perché magari attanagliato da tanti pensieri, dalle cambiali che scadano, in questo momento c'è da perdere il sonno. Esatto, ecco, ci sono delle piante che agiscono effettivamente calmando, sedando il paziente senza effetti collaterali, e questo è bello perché a differenza di farmaci questo tipo di piante medicali non ha praticamente effetti collaterali. Quali sono? Beh, innanzitutto adesso è molto studiata e molto usata la Witania, W come Walter, è una ginseng indiano che a differenza del ginseng ufficiale, quello coreano eccetera, invece di stimolare, invece di eccitare, calma tantissimo. Mm. E noi vediamo proprio questi soggetti, soprattutto i ragazzi giovani, che si calmano, si tranquillizzano, si sedano e cominciano veramente ad avere meno problemi di sonno. Ci sono altre piante poi ovviamente molto più conosciute, tipo la valeriana e biancospino, però io direi che è molto importante anche un alimento che poca gente conosce e che purtroppo non viene più usato e che dà veramente tanta calma e serenità e quindi favorisce praticamente il sonno, ed è l'avena. L'avena è un cereale stupendo, veniva usato appunto per le insonnie già secoli fa. Bene, fare una zuppa d'avena la sera, mescolata magari con un po' di farro e altri cereali, vuol dire veramente sedare tanto, tant'è che in zootecnia, per esempio, o addirittura nelle corse dei cavalli eccetera, viene usata molta avena di tipo sedativo eccetera per calmare ad esempio il cavallo che ha delle crisi d'ansia magari pre-gara. Quindi in sintesi noi possiamo attingere sia a questi alimenti sia a queste piante, il risultato è abbastanza buono, ma è molto soggettivo. E soprattutto dobbiamo modificare un po' il nostro stile di vita. Professor Vestita, grazie. Allora ci lasciamo con la witania e l'avena, giusto? Il ginseng indiano, esatto. E l'avena. Grazie. Grazie a voi, a presto. Grazie. Professor Ferini Strambi, ma noi donne abbiamo un sonno davvero così più leggero? Sicuramente il sonno della donna è diverso rispetto a quello dell'uomo, è più leggero, però devo dire che le donne, come tutte le cose, sono molto più sensibili e molto più in grado di captare diciamo così le caratteristiche della propria biologia rispetto all'uomo. Tant'è vero che la donna sicuramente è in grado di diciamo così, di percepire molto meglio dell'uomo un sonno frammentato, cioè quindi ecco forse perché spesso la donna si lamenta di insonnia e di cattivo sonno molto di più rispetto all'uomo, proprio perché ha questa maggiore capacità di percepire le alterazioni del sonno rispetto all'uomo, insomma. Andrea ci chiama da Catania, buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Scusa, veloce, saluto a tutte e anche lei al professore. E voglio chiedere una cosa. Io da circa 2 anni sto soffrendo di disturbi del sonno, specialmente la notte. Io viene discorso di problemi spirituali, anche dell'obesità, e mi risveglio durante la notte anche 3 volte, certe volte 4 volte la notte. E poi mi ritrovo seduto anche nel letto, aspettando che mi riprenda il sonno per ricoricarmi di nuovo. Certoni mi hanno consigliato che anche sarebbe la posizione del cuscino, se dovevo mettermi più alto con la spalla. Andrea, ma lei russa di notte? Sì. Ed è un po' sovrappeso? Sì, ma il fatto che anche mio padre, che è normale, diciamo... Questo problema simile. Sì, un problema di famiglia, dottor Corradin. Andrea mi sembra anche giovane dalla voce. Beh, come sempre bisognerebbe avere il quadro generale della situazione, perché poi quando c'è il sovrappeso, quando c'è il russamento notturno, che noi qualcuno pensa che si tratti solo di un disturbo per gli altri, in realtà poi capitano apnee notturne e quindi ulteriore aumento della CO2, quindi ulteriore difficoltà, ulteriore stimolo alla respirazione che funziona male, quindi disturbi generali. Qui bisognerebbe avere proprio una situazione generale. A volte, diciamo, che capita all'interno della stessa famiglia, pensando che in qualche modo sia genetico, talvolta è così, ma in realtà spesso è semplicemente un'abitudine. Cioè, non sempre ciò che capita all'interno della propria famiglia è genetico, a volte proprio sono stili di vita che si sono... Quindi quello che dicevo prima lo posso ribadire, posso solo aggiungere una cosa, così un piccolo consiglio in generale parlando del sonno. Io anch'io vado spesso a passare le mie vacanze in Oriente, e quando arrivo in Oriente, così come quando ritorno in Italia, mi faccio l'agopuntura. Il punto che utilizzo è un punto molto simpatico, si chiama mare dell'illuminazione. Dai, dov'è questo mare dell'illuminazione che mi piace? È molto bello perché aiuta anche a vedersi in un modo diverso. Comunque si trova mezzo dito sotto la punta del malleolo interno, aiuta a vedersi se stessi in un modo migliore e quindi avere un miglior rapporto con se stessi, ma è anche il punto, assieme ad un altro che ti dirò immediatamente, e assieme ad un altro che è posto sempre sul malleolo, ma questa volta all'esterno, sempre mezzo dito sotto la punta, e ad esempio non costa niente, se non funziona non succede niente, massaggiare per 30-40 secondi questo punto prima, quando si va a letto, in senso orario, fare proprio piccoli movimenti rotatori rapidi per un minuto sotto questi due punti, che ripeto si trovano sotto la punta del malleolo interno e sotto la punta del malleolo esterno, quindi sul piede, questi sono i due punti fondamentali come sintomatici che noi utilizziamo nei disturbi del sonno e particolarmente quando i disturbi del sonno sono associati a cambiamenti del ritmo. Per dirti in altri termini, quando io vado in Estremo Oriente una volta all'anno per le vacanze, tutte le prime 2-3 sere mi faccio questi punti, accanto al fatto di non andare a letto appena arrivo lì, perché per me sarebbe notte e per loro sarebbe giorno, invece certo. Mattina, invece che andare a letto subito, o comunque se vado a letto cerco di non dormire più di un'ora, poi mi faccio regolarmente questi due punti e devo dirti che mi aiutano molto. Anche e quindi anche la pressione. Ricordiamo che il malleolo, che viene anche chiamato noce del piede, vero professore? Sì, sì, ecco. Quella protuberanza che abbiamo sulla superficie interna della gamba e sulla superficie esterna della gamba, quelli sono i due punti su cui bisogna massaggiare un po'. Milvia ci chiama da Pesaro. Buongiorno Milvia. Buongiorno. Dica lei che dorme bene, che ha un consiglio per noi. No, chiedevo, siccome cerco appunto un equilibrio tra il dormire e diciamo l'attività, e a volte mi accorgo che diciamo più uno dorme più viene voglia di dormire, ci si sente rilassati. Esiste un modo per capire qual è il limite oltre il quale diciamo non è, a volte magari la mattina ho dormito di più, invece mi alzo con un po' di mal di testa, anche non so se è collegato un po' a un senso di depressione, cioè se il troppo dormire può essere negativo. Adesso non è che io dormo sempre troppo, in genere quando sento la necessità di dormire, se posso ancora diciamo. Sì, certo Milvia, ma allora lasciamo aperta questa, c'è un limite, se uno dorme troppo che cosa succede? Alla prossima puntata sul sonno. Grazie al professor Ferini Strambi, grazie al dottor Maurizio Corradin per essere stati con noi, vi saluto e vi prego di scaricarmi. Essere e benessere.